Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Controlli nel Milan, perde la pallone, attenzione al contrattacco della Lazio, un po' scoperta la difesa della Roma, è partito Felipe Anderson, dentro Giorgevic, palla dentro, al volo, rete! Lazio in vantaggio Mauri, Lazio in vantaggio! Attenzione, Anderson, parte il tiro, rete! Felipe Anderson ha raddoppiato la Lazio! Adesso Strootman prova il tiro cross, Totti, rete! Totti! La Roma rientra in partita, è il primo gol su azione in questo campionato di Totti che diventa il recordman della storia dei derby. 10 gol. La mette in mezzo, secondo palo. Gol pazzesco di Totti! Ma cosa ha fatto Totti? Grande acrobazia di Totti che di destro va a incrociare sul secondo palo e trova il pareggio. Ma cosa ha fatto Totti? 800 24 00 24, chiamate in diretta, vi prenotate, noi siamo qui fino alle 19. Cosa ha fatto Totti? Ha fatto due gol meravigliosi, ma che lui sia un fuoriclasse assoluto è inutile stare a raccontarcelo. Ha fatto anche altro, si è arrabbiato con Orsato alla fine del primo tempo, ha fatto il selfie sotto la curva sud dopo il gol del 2-1 senza essere ammonito, segno che Totti è davvero unico nel nostro calcio, chiunque altro sarebbe stato probabilmente mandato tranquillamente dall'arbitro da qualche altra parte. 800 24 00 24, c'è già Fabrizio Bocca che saluto di Repubblica al telefono, ciao Fabrizio. Ciao a tutti. C'è ovviamente il mio compagno di viaggio, Carlo Genta. Difficile chiedere di meglio, Carlo, a questo derby di Roma. Molto difficile chiedere di meglio a questo derby di Roma, è stata una partita splendida. Abbiamo visto di tutto, compreso il selfie di Totti, lo dicevi tu. Cioè, a questo punto nessuno potrà più essere ammonito perché va ad esultare sotto la curva, si toglie la maglietta. Sono probabilmente dettagli. Bellissima Lazio nel primo tempo che ha schiantato la Roma. Grande reazione della Roma nella ripresa e poi un finale letterario con questi due gol di Totti. Sì, sono dettagli, noi però siamo bastardi dentro e quindi lo vogliamo chiedere, ma da oggi cosa si deve fare per essere ammoniti dopo un'esultanza? Fabrizio Bocca, bel derby. Ciao. Ma sai, guarda, l'hai detto tu, a certi giocatori viene concesso qualcosa in più. Tecnicamente era da ammonizione, però insomma certi giocatori hanno un passaporto particolare, no? Per dirti, ci sono sempre stati dei giocatori che potevano fare in campo un po' quello che volevano. Ti ricordo soltanto il braccio alzato di Baresi quando chiedeva i fuorigioco e gli arbitri gli davano retta. Capita. Qualche punto ha portato al Milan quel braccio alzato che valeva come una bandierina. Però guarda, ecco, insomma, io l'ho trovata una cosa carina, divertente, anche abbastanza moderna, insomma è una cosa che può portare, diciamo così, bene, a parte i risultati, a parte i punti che porta alla Roma e quelli se li goda, il punto che porta alla Roma e se lo gode la Roma, ma insomma l'ho trovata una cosa divertente, spettacolare. Che fa il paio, Fabrizio, con l'abbraccio alla nonna di Florenzi? Che fai, esatto, bravo, bravo, bravissimo, che fai il paio con l'abbraccio alla nonna? Però la nonna vale il cartellino giallo, la nonna vale il cartellino, il selfie no. sono anche cose per stemperare un po' questo clima un po' pesante. Che c'è. No, ma noi ci siamo divertiti, infatti, tra l'altro Totti non è nuovo, io ricordo un po' di anni fa un'esultanza sempre a un derby sedendosi al posto di un cameraman a riprendere a sua volta i tifosi della curva. Una volta ha fatto la foto, no? Ha fatto anche la foto una volta, tra l'altro tutti a caccia di quel cellulare adesso, io stavo dando un'occhiata prima sui social. È il suo. È il suo, quindi si è fatto portare il telefonino, tutto organizzato. È organizzato tutto da lui, il preparatore dei portieri gli ha portato l'iPhone, infatti io ho pensato che fosse a un certo punto, siccome è l'iPhone dell'Apple, adesso non credo che facciamo pubblicità all'Apple. Dato no, no, l'ha fatta Totti, ci ha pensato lui. Allora, esatto, allora ho pensato che stesse uscendo l'iPhone 10, evidentemente. E invece è uscito un derby, esatto, è uscito un derby in cui al di là di Totti, classe 1976, classe purissima, cristallina, poi abbiamo visto anche quell'altro, 17 anni in meno, potrebbe anche essere il figlio di Totti, stiamo parlando di Felipe Anderson, che è un giocatore straordinario, è in questo momento il simbolo della Lazio, che se il Napoli non si dà una sveglia rischia di essere davvero la candidata principale al terzo posto. Assolutamente sì, no, ma Anderson si è svegliato all'improvviso, ma sono 3-4 partite che gioca in maniera incisiva, spettacolare, decisiva, segna gol, fa assist, dalla partita con l'Inter a Milano in poi ha sempre fatto grandi partite, grandi gol, protagonista assoluto, secondo me è anche un esploso così abbastanza improvvisamente, anche inconsapevolmente, nelle mani della Lazio, che insomma che fino allo scorso anno non è che lo considerava poi più di tanto. Anche, insomma, che avesse talento si sapeva, Fabrizio. Sì, una certa cifra, infatti, al Santos l'aveva pagata, adesso sembra qualche milione, 8-9 milioni. Ecco, sì, ma io ricordo anche le ironie. Però, insomma, un anno fa non è che avesse fatto granché. Ricordo anche le ironie quando sul finire del mercato di gennaio di un paio di stagioni fa Lotito e Tare non erano riusciti a chiudere per questione di documenti burocratici, spendendo questi 10 milioni di euro. Lotito è stato bravo, Tare anche, nel senso che si sono comunque tenuti segnati il nome, l'hanno preso poi 6 mesi dopo nell'estate. Lui ha avuto bisogno di un anno per crescere, evidentemente per ambientarsi. È molto giovane, quindi. Però oggi è un giocatore davvero incredibile, perché anche sul primo gol, lo racconto agli amici a casa, intanto vi invito ancora a prenotarvi 800 24 00 24, oppure se volete scrivere i vostri messaggi 349 238 6666, sul primo gol della Lazio, quello di Mauri, c'è un errore di Nainggolan che perde palla, però Nainggolan perde palla a 60-70 metri dalla porta del portiere di De Santis, e lui apre letteralmente in due la difesa della Roma con un'accelerazione di 40 metri, incredibile. Sì. Certo, infatti è stata, guarda, la partita un po' sia del giovane Anderson, ma anche dei vecchietti, perché insomma nella Lazio ci ha messo dentro pure, ha fatto il gol Mauri, insomma, che è uno dei giocatori più decisivi nella Lazio adesso. Totti ha 38 anni ormai. Quello che ha sorpreso di Totti soprattutto è non solo le capacità da grande calciatore che lui ha, ma ha avuto addirittura questo guizzo acrobatico che è invece proprio da ventenne in fondo, e poi insomma in fondo a una partita ormai ha... Beh, adrenalina da derby, Fabrizio. Esatto, è adrenalina da derby. Magari si riposerà per un paio di partite, ma ben venga, sì. Insomma. Sì, sì, noi spesso siamo qui a interrogarci su quanto sia condizionante per i suoi allenatori, compreso Rudy Garcia, Francesco Totti. Lo è Totti, se cammina, se respira, se sta bene deve giocare. Oggi non so se avete notato lo sguardo di Destro in panchina a inizio partita, tutt'altro che convinto, come di quello che non gliene frega niente. Sì, Destro ha fatto 9 minuti più recupero, poi magari avremo anche tempo di approfondire questo tema questa sera. Questo è il dato numerico, la Juventus potrebbe provare a riallungare sulla Roma, dovesse vincere a Napoli, dove però non vince da 14 anni, quindi partita tutt'altro che banale. E poi un giorno ragioneremo anche su queste doppie Roma, che Garcia ci propone, perché anche oggi, Fabrizio, caro, la verità è che la partita, il tecnico francese l'ha cambiata nel secondo tempo, però ribaltando la squadra, ha inserito Strootman, Ljajic. Esatto, sì, ma io credo, guarda, che Garcia, che poi comunque rimane un grande tecnico, abbia faticato un po' quest'anno nel cambiare l'impostazione alla Roma. Lo scorso anno la Roma era una squadra che giocava a fari spenti, senza grandi aspettative addosso, giocava soprattutto di contropiedi. Quest'anno gioca così, adesso in questo momento gioca la Lazio. La Roma va un po' in difficoltà quando deve fare la partita, deve fare gioco, vuol praticare il possesso palla. Invece quando gioca molto appunto sulla forza, sull'adrenalina e anche sulla corsa, invece va meglio. Ma se deve impostare la partita tranquilla, fare gioco lei, insomma, è un po' più, soffre un po' di più. Poi Gervinho cambia qualcosa, comunque. Gervinho assolutamente sì. Sì, soprattutto se sta bene, perché non è che in questa stagione... A me non sempre piace come giocatore. Sì, sì, è sempre stato trascinante. 800 24 00 24, aspettiamo le voci in diretta di Pioli, di Rudy Garcia e anche di tutti gli altri, perché oggi c'è stata anche la vittoria della Sampdoria, che in questo momento è lì, aggrappata al Napoli al quarto posto. Vittoria quella della Samp, pareggio quello della Lazio, che un po' complicano la vita all'Inter di Mancini, che oggi ha vinto bene, giocando un buon primo tempo contro il Genoa. Genoa. Abbiamo un minuto di traffico, Fabrizio, ti chiedo un minuto di pazienza così poi completiamo il discorso. Traffico. Orbene, cari amici di tutti i convocati weekend, mi pervade questo senso, come dire, questa sensazione torrida, grottesca, e Garcia, un personaggio criminalmente da suburra, sbattacchiera per bene l'arbitro dicendo panzane incredibili. E dai! Convocati. C'è un amico da casa, Carlo, che scrive: ma come mancata ammonizione, vi lamentate, il progresso è anche questo, bisogna stemperare il rischio di essere pedanti. Per carità, noi l'abbiamo detto, ci siamo divertiti e siamo anche contenti che Totti sia Francesco Totti, con la maglietta vi ho purgato ancora, le foto, l'inquadratura fatta con la telecamera, da oggi a questa galleria aggiungiamo il selfie e non andiamo avanti oltre sulla questione del selfie. Sono d'accordo, però ci sono delle regole e poi qualcuno magari avrà anche diritto di lamentarsi, no? Sì, posso essere malizioso, io ricordo Corriere della Sera, dopo Tevez col ciuccio non ammonito, il boxino andava a termini di regolamento ammonito, c'era una questione di cartellini gialli, possibili diffide ed eventuali future squalifiche. Vediamo domani, domani leggiamo con grande curiosità i giornali di Roma, di Torino, li leggiamo tutti. 800 24 00 24, ma che voto date a Garcia per questo derby? Perché ripeto, comincia a non essere un pregio ribaltare la partita in corso, Fabrizio Bocca di Repubblica, cioè se tu continui a sbagliare le formazioni all'inizio qualche problema ci sarà anche. Sì, però se tu mi chiedi un voto è comunque alto, perché insomma comunque la partita l'ha ripresa e direi, guarda, un 7 meno. Carlo. Sì, 7, sono d'accordo, 7, perché è comunque un pregio riprendere la partita, ma più mi è sembrato non solo una questione di formazione ma anche di atteggiamento, Fabrizio, del modo in cui la Roma ha approcciato la partita, perché nel primo tempo è stata presa a schiaffi dalla Lazio. Sì, sì, assolutamente sì. Beh, sai, la Lazio in questo momento è una delle squadre più in forma che c'era, insomma, era anche normale soffrirla un po' così. La Roma l'ha sofferta, diciamo, particolarmente, non è riuscita ad arginare Anderson, e del resto è una squadra che in difesa ha sofferto sempre. Poi ripeto, è una squadra che tende a sbilanciarsi un po' in attacco, per cui il patatrac è arrivato. Poi dopo è stata tutt'altra Roma con l'ingresso di Strootman, di Ljajic, e poi nel finale è entrato anche destro al posto di Turbe. Però è stata la classica partita, Fabrizio, spaccata in due tra primo e secondo tempo. Grazie Fabrizio Bocca. Ciao Fabrizio. Ciao. Grazie Fabrizio Bocca. Ci scrive: anno 1976, anno di classe purissima, ragione questo amico Francesco. Totti, Ronaldo, Seedorf, Shevchenko e Van Nistelrooy. Però di tutti questi gioca Totti, ancora soltanto anche lui. Nesta, no? 76. C'è Totti, chiedo a Claudio Schiattone, la sentiamo allora. Ci racconti, tu hai sempre avuto delle esultanze con qualche sorpresa, ci racconti questa dopo il secondo gol in acrobazia, quella del selfie, com'è nata? Già ci ho pensato una settimana, ormai c'è la moda del selfie, io non sono abituato a farli perché la mia vita privata la tengo per me stesso, però questa era un'occasione unica e ripetibile, avete scavalcato giocatori importanti per questa stracittadina e era un ricordo che si ricorderanno un po' tutti. Sì, vita privata, per modo di dire, era lì davanti a 60.000 persone all'Olimpico. Vabbè, Francesco Totti. Era vita pubblica, infatti, questa era vita pubblica, chiaramente. Comunque, io adoro Francesco Totti, lo dico perché ci stanno scrivendo. Sì, ma come in ritardo, secondo te, De Santis sul tiro di Felipe Anderson? Sì, c'è questa questione, cioè alla Roma serve o no un portiere urgentemente un po' più affidabile di De Santis? Credo di sì. Che però, ha salvato il risultato al 44esimo secondo tempo con un riflesso da gatto su un altro avvicinato di Klose. Come Klose, che ormai è seduto fisso in panchina perché gioca Djordjevic, che è il nuovo titolare della Lazio. 800 24 00 24, in attesa delle voci di due allenatori, Domenico da Varese. Domenico, allora io sono, buonasera a tutti, eccoci. E allora, gran giocatore Totti, io sono juventino quindi volevo dire una nota storta solamente. Allora, e certi giocatori, come dici di voi, si è permesso tutto e avete ragione. Anche il Napoli, quando ha vinto con noi l'ultima coppa che ha vinto il Napoli, si sono visti a Piazza Plebiscito, sono napoletano, si sono visti a Piazza Plebiscito gente con motorini senza casco. Voglio fare il paragone col Totti per dire. Sì, no, io c'entra diciamo poco, Domenico. C'entra poco, sì, perché però ascolta, io a Varese se mi fermano senza casco, mi sequestrano il motorino, ecco le due Italie spaccate. Sì, ma a prescindere dalla coppa vinto o persa questa, eh. Sì, ma comunque Tevez col Ciuccio non l'avevano ammonito, adesso. Ascolta, per dire ascolta, che alla fine l'esito è stato lo stesso. Ascolta, io a Totti gli auguro, prima di finire la partita di cose, io da Juventino gli dico, gli auguro che possa vincere lo scudetto. Qua se lo dico più di questo. Però sì, non può esistere su due pesi e due misure. No, però Domenico, visto che parli da juventino, non puoi non riconoscere, sì, ad esempio, che gli scudetti che Totti ha vinto a Roma hanno un peso specifico particolare. Se 10-15 anni fa Totti avesse fatto una scelta diversa, fosse andato... Te lo volevo dire anche io, se fosse andato al Real Madrid sarebbe diventato ancora più grande, ma per l'amor di Dio, ci mancherebbe. No, ma volevo dire, lo spaccato degli italiani, come siamo fatti, capito? E quello è la storia. È come dire che il Don gli dice, guarda, hanno rotto la campana, e chi sono stati i ragazzi? Poi la seconda volta hanno rotto ancora la campana, e chi è stato? Tuo nipote è disgrazia, capisci? È quello il mio paragone. Grazie Domenico. Intanto Carlo, se vuoi ci interroghiamo anche sul ginocchio del fuorigioco di Totti, se era fuorigioco o no, la rete del 2-1, no, siamo sui proprio millimetri. Siamo sui millimetri. Secondo me sembra, no, ma se anche lo fosse stiamo parlando di una chiamata impossibile. Secondo me non era fuorigioco. No, eh? Non era fuorigioco, mi sembra un gol regolare su cui si discuterà naturalmente perché siamo abituati così, però non mi sembra davvero il caso questo, cioè non mi sembra il caso di quel ginocchio, mi è sembrato tutto tranquillo, poi vediamo mille moviole, lo scopriamo insomma. Giovanni. Giuliano da Perugia, Giuliano. Sì, buonasera. Grazie per la convocazione. Io volevo fare solamente volevo farvi una domanda riguardo la partita di ieri sera. Dunque, io parlo da milanista da una vita, e al di là del rigore che comunque si poteva essere dato o non dato, vabbè, parlo da milanista, però la domanda mia è, con una squadra come quella che hanno ormai anche allestito con Cerci, che hanno preso l'ultima partita fatta con il Sassuolo, abbiamo visto che De Sciglio non era assolutamente all'altezza, hanno tenuto difensore, vabbè, mi sfugge un attimo il nome, abbiate pazienza. Abate? In panchina. Abate, che è entrato il secondo tempo. Abbiamo tenuto Esciarau in panchina, anche se con la partita col Sassuolo non ha giocato assolutamente bene, ma sicuramente è molto più costruttivo di Niang. E volevo farvi una domanda, se secondo voi è una cosa giusta e logica come si sta muovendo in questo momento la società e l'allenatore, anche se sappiamo benissimo tutti che non è l'allenatore che penso che faccia la formazione, ma al di là di questo, sì, mi è sembrata una stupidata. Di sicuro la formazione che perde col Sassuolo e pareggia col Toro a pochi padri a Milanello. Però Giuliano, aspettami lì perché c'è Garcia ai microfoni di Sky Sport, lo sentiamo in diretta. Al pareggio, che è il contrario, vuol dire che la rivolta c'è stata e che i ragazzi hanno fatto un secondo tempo di alto livello, senza dubbi all'intervallo, perché essere sotto due gol non è mai facile, sul fatto che dopo, un po' come al circo, si gioca senza rete. Perché quel primo tempo? Un primo tempo in cui la squadra è andata in grande difficoltà, ha costruito solo un'occasione, credo, con i Turbe, un primo tempo tra i più brutti, no? Della Roma di quest'anno. Non tanto, non è che la Lazio ha avuto tante occasioni nel primo tempo, abbiamo regalato tanti palloni interessanti per loro, ma non solo nel primo tempo, anche nel secondo, e penso che quasi tutte le occasioni loro sono state regali nostri, e su questa cosa dobbiamo migliorare, perché sapevamo che con la velocità di Candreva e di Felipe Anderson non era possibile sbagliare, soprattutto il gioco spalle alla porta come l'abbiamo fatto sul primo gol. Secondo tempo lei ha cambiato anche tatticamente la squadra, è questo sistema di gioco che abbiamo visto nella ripresa il più adatto fino a che la Roma non avrà Gervinho? No, quello del primo tempo è anche adatto, l'unica cosa quando ci perde 2-0 bisogna dare problemi all'avversario, e il problema che ha dato Mirempiani giocando più alto e con un Francesco Totti molto più nell'area che nel primo tempo, abbiamo trovato delle soluzioni e abbiamo fatto veramente un grande secondo tempo. Sì, la... pericoloso, però aspettare 50 minuti prima di capire che devi alzare Pjanic, metterlo tra le linee e trovare quelle soluzioni che poi hanno messo in difficoltà effettivamente la Lazio, perché il secondo tempo la partita è cambiata assolutamente, ma anche prima del gol del 2-1 di Totti si era capito che qualcosa stava cambiando. La Lazio nel secondo tempo, Carlo, ha avuto giusto quel guizzo, il palo di Mauri, che avrebbe potuto chiuderla questa partita. Beh, anche l'azione di Klose, anche l'occasione di Klose al 44esimo, quando le squadre si erano completamente aperte, perché è stato un finale in cui tutte e due, ma soprattutto la Roma, hanno provato a vincerla. Siamo in debito della risposta per Giuliano da Perugia sul Milan. Tra l'altro io chiedo agli amici 800 24 00 24, perché poi più avanti anche con Franco Ordine cercheremo di capire cosa ne sarà di Inzaghi, perché io ieri cosa sera che ne sia. Mi chiedevo quale pensiero avrebbe avuto Berlusconi vedendo quel Milan che ricordava tanto il Milan di Rocco. Peggio. No, credo che nemmeno Rocco avrebbe fatto quel cambio nel finale, cioè consegnandosi totalmente al Torino, che già stava dominando da tutte le parti, cioè che d'accordo l'espulsione di De Sciglio, d'accordo giocare un tempo in inferiorità numerica, ma se sei una squadra appena appena giochi a Torino, sei il Milan, comunque cerchi con intelligenza di mettere in difficoltà gli avversari. Questo consegnarsi, arrendersi totale del Milan alla furia di un Torino che non ha lo straccio di un attaccante, che non riusciva comunque anche 10 contro 11 dominando la partita, tenendo sempre la palla e avendo chiuso il Milan nell'angolo, a tirare in porta e a rendersi particolarmente pericoloso. Quindi quest'ultima mossa di Inzaghi veramente non mi sembra difficilmente difendibile anche a Milanello, anche da Berlusconi. Sì, Berlusconi che non più tardi di una settimana fa aveva detto: abbiamo tutto per essere la squadra migliore del 2015, per pensare alle goleade, comandare il gioco, sì, quello che è il suo mantra dai tempi del Milan degli olandesi. Questo Milan ha però una realtà diversa e secondo me andrà anche corretto sul mercato di gennaio. Se il Milan fa il colpo destro, fa un grande colpo, non è detto però che sia quella l'emergenza. Insomma, mi sembra che anche a metà campo il Milan abbia certamente bisogno di qualcosa. No? Chi è? Un cordiale saluto agli amici, alla redazione di Tutti Convocati Weekend. Sono il senatore Maurizio Gasparri, grande romanista. Esatto, il vostro twitterista più affezionato. Contento del derby, bel derby, dai. Ma io penso che sia auspicabile una maggiore attenzione da parte degli arbitri nei confronti della Roma. No, ma non è... Senatore, a parte che non è successo niente oggi, ma al massimo discutiamo sul fuorigioco di Totti e quindi poteva anche essere annullato il gol, no? Sulla mancata ammonizione di Totti. Ecco, se mi lascia parlare, Capuano, sì. La sua è una considerazione inadeguata, sì. Riscontro la sua sostanziale inadeguatezza ed incompetenza. Come inadeguato oggi è stato Orsato, sì, ha ragione Garzia, no, ma cosa ha fatto di male? Orsato si è anche fatto mandare a quel paese da Totti, cosa ha fatto Orsato di male? Guardi, io penso sinceramente che il selfie di Totti, e lei lo sa che io trascorro la maggior parte della mia giornata lavorativa facendo Twitter. Sì, giornata lavorativa. Sì, vabbè, non facciate di lui. Dicevo, il selfie dopo il secondo gol in giravolta spaziale sia la cosa più bella vista in questo secolo. Il gol, bello, senza esagerare. No, io dico il selfie è un capolavoro per chiunque capisca qualche cosa di comunicazione. Sì. E se lei ricorda, io sono stato pure ministro della comunicazione. Sì, ricordiamo. E quindi però non è stato ammonito. Doveva dare un recupero. Orsato doveva dare un recupero più cospicuo, più congruo al tempo che giustamente si è perso. Sì, ma doveva ammonire Totti, altro che recupero più cospicuo. Io dico invece, aboliamo gli arbitri. Senatore, arrivederci. E della Juventus e dei cugini laziali, ma chi se ne frega, ma vadano a morire forza lupi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Faccio una rapida rassegna degli sms che stanno arrivando al 349-238-6666. C'era netto fuorigioco sul primo gol di Totti. Avete rubato la partita. Il selfie è una cafonata. Questo è un amico un po'... un po' inacidito, no, sul fuorigioco netto no, netto, se ammetto no, netto, che, ammesso che fosse fuorigioco netto, stiamo no. parlando dei millimetri, e ripeto, secondo me comunque c'è un ginocchio sbagliato del difensore della Lazio, credo Radu, che tiene perfettamente in linea Totti, ma stiamo veramente parlando di millimetri. Poi si discute anche di un precedente fallo di Astori all'inizio dell'azione, vedremo tutto nelle lunghe moviole di questa serata e delle prossime giornate. Poi c'è chi dice, volevo chiedervi, ma la sera di Juve-Roma siete stati a guardare i centimetri di Pogba? Dovete avere un minimo di decenza. Ulisse, ma che cosa dobbiamo dire? Decenza in che senso? Più di quello che abbiamo detto sul presunto fuorigioco di Totti, non lo so. Ulisse da Casal di Principe. Poi c'è chi dice, la mancata ammonizione a Totti è lo specchio di un'Italia dove la legge non è uguale per tutti. Buonasera Michaela, buonasera Michaela, buonasera a te. Poi ci sono alcune considerazioni sul Milan, che io credo sia davvero uno degli aspetti più brutti di questa giornata, perché diciamo la verità, negli ultimi vent'anni raramente abbiamo visto un Milan così dimesso, sì, anche nelle annate peggiori. Ma è un Milan che è molto ondivago, che cammina come i gamberi, che alterna prestazioni che possono ispirare anche un po' di fiducia a prestazioni a stretto giro di posta che di fiducia non ispirano affatto. Sarà interessante magari poi anche per il capitolo Inter, perché oggi, insomma, dopo la miglior partita stagionale a Torino, oggi ha giocato una grande partita, sì, soprattutto un gran primo tempo. Fra qualche minuto chiamiamo Roberto Cravero, che ha fatto la partita per Mediaset Premium, però prima sentiamo giusto l'inizio di Pioli su Sky Sport. In questo momento da due anni ha obiettivi diversi dai nostri e abbiamo giocato sicuramente almeno alla pari. Poi è chiaro, è inevitabile che ci siamo trovati meritatamente in doppio vantaggio, quindi la vuoi portare a casa la vittoria, la vuoi portare a casa il risultato, ma non abbiamo mai pensato in intervallo che la partita fosse già chiusa. È chiaro che rivedendo i gol, insomma, eravamo piazzati bene, siamo una squadra un po' particolare in questo momento, nel senso che con tanti pregi sicuramente e con qualche difetto. Il difetto che dobbiamo eliminare è quello che sembra che siamo più attenti, più aggressivi, più intensi quando la palla è nella metà campo avversario, e siamo un pochettino meno quando arriva nella nostra metà campo. Questo credo che sia un passaggio che dovrà arrivare se vogliamo veramente avere le possibilità di competere per le posizioni alte della classifica. Questo Stefano Pioli mi sembra lettura assolutamente perfetta del derby da parte dell'allenatore della Lazio. Leggo la classifica: Lazio 31 punti, in questo momento terza in classifica, con comunque un vantaggio importante su quelli che potrebbero essere i competitor, Napoli a parte, nella corsa per il terzo posto, ha ad esempio 5 punti sul Milan e ne ha 6 sull'Inter. Saluto Roberto Cravero, ciao Roberto. Ciao. Inter, ciao. Che oggi credo abbia fatto il miglior primo tempo della stagione, dopo aver fatto un ottimo secondo tempo a Torino una settimana fa contro la Juve. Si tratta di metterli insieme, Roberto? Assolutamente sì, hai ragione. Un primo tempo veramente di altissimo livello. Una formazione offensiva, cioè Mancini ha messo tutta la qualità che aveva in campo, perché ha giocato con questo 4-2-3-1 con diciamo quattro giocatori offensivi e Guarin davanti alla difesa. Guarin migliore in campo insieme a Vidic. Primo tempo entusiasmante, secondo tempo così. Sì, secondo tempo in cui si è un po' spenta l'Inter, probabilmente ha tentato di controllare la partita e in questo momento non è ancora costruita, strutturata per farlo, manca anche, credo, ma poi ne parliamo, un regista davanti alla difesa. Io oggi ero a San Siro, vedere Medel toccare 100 palloni ed essere il primo riferimento appena l'azione deve uscire, secondo me rilancia l'azione, dà assolutamente ragione a Mancini, che sta cercando un uomo davanti alla difesa. Me lo fate sentire Mancini? No, sono soddisfatto del risultato, sono soddisfatto del primo tempo, non del secondo tempo, però questo poteva essere preventivabile perché siamo calati tanto con i tre giocatori d'attacco dietro a Icardi, quindi abbiamo perso possesso palla, abbiamo perso profondità, siamo andati un po' troppo indietro con la difesa perché non tenevamo, quindi, però il problema di loro tre è perché sono indietro di condizioni tutti e tre. Questo Mancini serve un regista, Roberto? Sì, probabile, però io dopo aver visto Guarini, perché penso che Medel davanti alla difesa non lo tolga, perché comunque gli dà quella protezione difensiva, gli dà un po' di quella cattiveria che probabilmente in nessun centrocampista dell'Inter ci sia. Il regista toglierebbe spazio a Guarini, ma se Guarini è quello di oggi, io ci penserei due volte a toglierlo lì, perché ha fatto bene tutto, sia la fase difensiva sia la fase offensiva, si è inserito, è andato al tiro, ha dato un assist dopo 10 minuti ai Cardi, ci ha fatto una partita veramente di alto livello. Io continuo a pensare, Roberto, comunque, che un giocatore barometro possa essere Hernanes. Non è possibile che ci si sia sbagliati tutti, compresi i selezionatori delle nazionali brasiliane. Hernanes non può essere il giocatore che abbiamo visto nella sua avventura interista. Sì, sì, sono d'accordo con te. Oggi largo sulla destra, da esterno, non può farlo, chiaramente un giocatore adattato. Lui ha cercato di interpretare il ruolo secondo le sue qualità, ha fatto anche qualche buona giocata. Buono quando soprattutto devi gestire il pallone, perché è difficile da anticipare. Però se ti aspetti da Hernanez il salto di qualità, ecco, quell'Hernanez, l'Hernanez della Lazio non l'hanno ancora visto. Voto a Podolski, prima da vero giocatore dell'Inter, a Torino aveva fatto soltanto un coriandolo di partita. Oggi mi sembra bene, sì. Evidentemente calato anche lui con il passare, sì, dei minuti, però mi sembra un buon approccio. Cosa possono, sì, dare Podolski e Shaqiri? Shaqiri dobbiamo vederlo qua in Italia, ma se è quello che conosciamo, anche giocando poco nel Bayern, ti dà quella qualità che pochi giocatori nel campionato italiano hanno. Podolski oggi molto bene, a me è piaciuto molto, perché ha fatto tutte le cose semplici, non rischiando mai nulla, giocando sempre la palla possibilmente un tocco, massimo due tocchi, poi cercando la giocata al limite dell'area. Ma un attaccante, questo non soltanto bisogna accettarlo, ma bisogna chiederglielo. Però secondo me con Shaqiri, Podolski, l'Inter fa un grosso passo in avanti. Sì, sì, sempre avendo davanti Icardi, che per carità sarà incostante, non sarà continuo. La sbatte dentro. Oggi ha segnato il gol numero 10, 18 partite, non siamo nemmeno a metà campionato, e ha già battuto il suo record di sempre in Serie A, i 9 gol fatti con la Sampdoria nel 2012-2013. Credo che Toira, Ausilio e Mancini, prima di pensare di mettere sul mercato Icardi, magari a giugno, perché poi ci sono i paletti del fair play finanziario, c'è tutto quel discorso economico che qui molto spesso affrontiamo, anche tirandoci le critiche degli amici da casa, però insomma Icardi, 21 anni, è un giocatore, Roberto, su cui si deve costruire, lui, Kovacic, insomma, che vendano qualcun altro. No, hai fatto bene a sottolineare una cosa, 21 anni, è un 93, cioè ha dei margini di miglioramento che sono enormi, cioè se l'Inter non parte da Kovacic e Icardi, allora può saltare il progetto. Assolutamente, bisogna ripartire da due giocatori giovani, ma già pronti, già con esperienza. Icardi adesso, alcune volte, anche quest'oggi, è stato abbastanza egoista. Gli piace comunque essere protagonista, gli piace cercare, magari servire di meno il compagno, ma questi sono anche episodi che col passare del tempo, con l'esperienza, uno acquisisce, quindi tu dici, del tempo, sì, a me lui sembra così, cioè a me sembra un giocatore, no, di quel tipo, sì, e sì, comunque, sì. Cioè se anche è un giocatore di quel tipo, ripeto, è un giocatore che segna, che fa la differenza. Perché dico questo? Perché quando poi ti sarai tolto molte soddisfazioni, anche la tua testa cambia che avrai soddisfazione anche nel servire un assist. Lui in questo momento non ce l'ha, lui in questo momento pensa solo a se stesso. Che è un attaccante, non è un grandissimo difetto, però se tu vedi un compagno messo meglio nel calcio, dovresti dargli. Sì. Grazie Roberto. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Grazie Roberto Cravero. Neanche Andanovic ci avrebbe parlato così. Esatto. Ma io non ho parato, è arrivata, no, proprio in faccia. Esatto, no, infatti era una battuta. Appena arrivato mi ha detto: non farete mica rivedere la pallonata. Subito, volevo sapere se eri tutto intero e ti sei ripreso. No, non è stata una cosa piacevole, perché era abbastanza vicino, però sto abbastanza bene. Questa è l'altra immagine della domenica, Mancini che la prende in steso faccia, da Andreolli. Sì, sì, sì. A proposito, ci sono notizie, Andreolli sul mercato insieme a Osvaldo, e a Mancini verrà consegnato un altro tapiro d'oro in settimana, dopo quello che ha fatto anche un po' arrabbiare i tifosi dell'Inter, che ha detto: ma come, date il tapiro d'oro a Mancini col mercato che sta facendo l'Inter? Andate da Gagliani, da Inzaghi. No. Ma adesso gliene arriva un altro, amici interisti. 800 24 00 24, Massimo D'Alecco. Massimo. Pronto? Eccoci. Io sono un abbonato all'Inter da 23 anni, e mai come in questi anni mi sono reso conto che il giocatore più sopravvalutato della mia carriera allo stadio era Nocchia. Ha una considerazione a livello giornalistico incomprensibile. Sì, Massimo, ma oggi l'Inter ha vinto 3-1. Oggi l'Inter ha vinto senza Ranocchia. Per carità, sì, ma non... ha vinto senza Ranocchia. Io voglio capire per quale motivo questo giocatore viene continuamente osannato quando è un mediocre, perché è un centrale che continua a guardare la palla e non guarda l'uomo, non può fare quel ruolo. Ranocchia è il danno dell'Inter. Ranocchia vorrebbe giocare titolare centrale, dovrebbero giocare Campagnaro e Vidic, e Ranocchia in panchina. Vidic che fino a stamattina tutti gli interisti volevano sul primo treno, no, per Juma, per ovunque. Ma Vidic è indubbiamente tra i più grandi centrali della storia del calcio, almeno secondo gli inglesi. Cioè, non è che quest'anno sì, che non sono maestri di difesa, quindi non è di per sé una patente assoluta. Però Massimo, secondo me vanno fatti una serie di ragionamenti. Io dico anche che all'Inter, e sicuramente questo ragionamento loro l'hanno fatto, devono tenersi stretti quei 2-3 giocatori italiani che hanno, perché cambiano anche le regole, Massimo. Cioè, tra l'anno prossimo e l'anno dopo non sarà più possibile fare rose solo di stranieri. Allora, l'Inter ha un difensore centrale che è comunque un nazionale, che ha una certa esperienza ad alti livelli. Secondo me Ranocchia nell'Inter ci deve stare tutta la vita e anche un pezzettino in più. Poi forse non è diventato quel giocatore che aveva lasciato intravedere lasciando Bari quando era un giovane di bellissime speranze. Grazie Massimo. Mi fate sentire Mihajlovic, microfono di Sky. La Samp ha battuto 1-0 l'Empoli. L'abbiamo affrontato con atteggiamento giusto. Abbiamo creato, penso alla fine che comunque abbiamo vinto meritatamente, sicuramente abbiamo dimostrato tutti di saper ripartire dopo una brutta sconfitta come quella che è successo contro la Lazio. Un altro dato importante è che comunque non abbiamo subito gol, ecco, che da un po' di partite che li prendiamo sempre, oggi siamo riusciti anche a non subire gol, perciò sono molto contento. E poi quella prestazione della Lazio viene rivalutata anche da quello che la Lazio è stata capace di fare oggi, soprattutto nel primo tempo del derby. Traffico. Sono Lapo Elkan, un saluto pieno di energia a te Capuano e al contempo stesso a Ginta Pardo, agli amici sempre pieni di matricità New Fashion di Radio 24 e tutti convocati weekend. Tutti convocati. Tifoso interista si chiedeva perché Vidic non giocasse mai. Paolo, perché Vidic aveva commesso anche qualche errore importante nelle partite che Mazzarri gli aveva dato, peraltro in una difesa 3. Appunto, Giovanni, da lì a sparire, voglio dire, arriva Mancini, si gioca con la difesa 4, Vidic non lo vedi mai, ti domandi perché, non stava benissimo, lo sappiamo, però rimane comunque un eccellente giocatore. Alessandro dalla provincia di Milano, eccoci. Buon pomeriggio. Anche a te, prego. Complimenti per la trasmissione. Sono un tifoso bianconero, ci siamo già sentiti un paio di settimane fa. Sono contento perché finalmente ieri l'allenatore della squadra che oggi è prima in classifica insieme a noi non ha parlato degli arbitri. Incredibile, sì. Ma vero, ieri in conferenza stampa non ha parlato di arbitri e soprattutto non ha parlato di Juventus-Roma dell'anno scorso, perché siamo nel 2015. Si è giocato a ottobre. Poi volevo dire un'altra cosa. Sì, ma tornerà a parlarne, non sì, è che non, certo, non si faccia certo, tutte queste illusioni. Certo. Volevo concludere il mio intervento dicendo che la Juve giustamente è stata criticata in questo periodo perché gioca, penso, 35-40 minuti ad alto livello. Però siamo fortunati perché, secondo me, come negli altri anni, abbiamo uno sparring partner non molto deciso come la Roma oggi, perché sta anche lei pareggiando tante partite e nessuno pretendeva chiaramente di fare un altro campionato da 150 punti come quello dell'anno scorso di Antonio Conte, ma l'importante è alla 38esima essere davanti anche di un punto. Sì, tra l'altro, dato statistico, se la Juventus questa sera non vince a Napoli, cosa peraltro tutt'altro che scontata, Allegri ufficialmente non può fare i 102 punti di Conte. Quindi da oggi mettiamo una pietra. Ad Allegri, che è uno pragmatico, frega qualcosa di fare 103 punti? No, però noi siamo qui anche per raccogliere i numeri. A proposito della Roma, Allegri vuole fare strada in Champions, per carità, vuole vincere lo scudetto. Starà pareggiando qualche partita, però la Roma ha un punto in meno dell'anno scorso e ha fatto un girone di Champions in più. Io non sottovaluterei il campionato comunque che sta facendo questa Roma. Ci sono anche tante domande che ci arrivano sul Milan. Quando la musica finisce, raccogli la pistola e cerca di sparare. Farnerud, zona tiro per lui, fa col sinistro e Thiago Lopez gli dice di no. Martinez, Farnerud, che palla, Quagliarella, Thiago Lopez. Eccolo il cross da parte di Farnerud, va Moretti, la sua sponda, nessuno la tocca, che occasione per il Toro. Gran palla per Darmian, il palo dice di no e poi spreca incredibilmente sotto porta Moretti. Il cross, pallone dentro e colpo di testa di Glick. Quinto gol in campionato, arriva il pari, Kamil Glick, 1-1. Bello, l'assalto a Forti Inzaghi. Fammi salutare subito Franco Ordine. Ciao Franco. Carissimo. Ciao Ciccio. Oh, vi faccio sentire Inzaghi, che ieri ha fatto scandalo con questa frase. Forse se non prendevamo gol su angolo avremmo vinto anche una partita giocando in 10-50 minuti, per cui insomma, penso che è stato un Milan a due facce e sicuramente dovevamo far meglio nel primo tempo. Sì, la seconda piena di pugni. Sì. La seconda faccia tumefatta dal Torino. Perché qualcuno ha detto, ma come? Dice, se non prendevamo gol vincevamo, a parte Monsieur Lapalisse, c'era anche un altro Monsieur Mazarri. E se fosse rimasto 1-0 probabilmente ce la saremmo giocata fino all'ultimo minuto. Prendere due gol così, sinceramente mi sono arrabbiato tanto. Franco, che succede a Inzaghi? Si è mazzarrizzato, no? Sì, no. Fa passi indietro anziché fare passi avanti da tutti i punti di vista, ma anche comincia anche dal punto di vista della comunicazione. Intanto dice che dopo l'1-0 il Milan ha avuto un'occasione per fare il 2-0 e vorrei che me la ritrovasse lui da qualche parte, perché io francamente, a parte il tiro di Niang, non ho colto nient'altro. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che mi deve spiegare perché questa squadra nel giro di la sosta invernale è spuntata fuori dopo le vacanze un'altra squadra, un altro Milan. E terzo, mi deve spiegare perché al di là di alcune scelte questa squadra appena va in vantaggio, intanto i difetti sono quelli di sempre, continua a prendere sempre gol di testa, che l'ha preso da Glick nel finale ma lo poteva prendere tranquillamente da Moretti e da Glick nel primo tempo. E poi mi deve spiegare per quale motivo continua a far giocare una squadra che dal punto di vista fisico clamorosamente in ritardo. Sì, ci sono notizie di Berlusconi, noi siamo rimasti al 3 gennaio, questa è una squadra che ha tutto per essere la migliore italiana del 2015, per comandare il gioco e eccetera eccetera, tutto il resto dell'armamentario dialettico di Silvio Berlusconi. Non ci sono reazioni, ma non ci vuole una grande fantasia per indovinarle, perché è evidente che c'è una clamorosa insoddisfazione, ma poi soprattutto io comincio a cogliere dei segnali anche interni che sono molto preoccupanti. Allora, Abate che dice chiaramente eravamo in 10 e non in 8, come per dire anche in 10. Ha ragione. Anche 10 si gioca a pallone. Esatto. E poi quella reazione assurda, isterica di Muntari dopo la sostituzione, tra l'altro legittima perché era già ammonito e poteva tranquillamente finire fuori. Tutto questo mi fa pensare che ci sia anche in mezzo un come dire, uno sfilacciamento dell'ambiente. No, poi tra i, mi deve spiegare Ciccio, magari domani chiamo un mio amico mondonico che si professa ed è strenuo sostenitore, difensore, ammiratore del catenaccio, cioè nemmeno lui avrebbe fatto quel cambio nel finale consegnandosi totalmente al Torino, cioè fuori Menes, dentro un altro difensore, mentre quelli già ti stanno 4-5-0. Prendendo, ti stanno prendendo a pugni e a cazzotti in modo da permettere magari anche al portiere di salire. Esatto, e questa è proprio, tra l'altro l'aveva già fatto vedere nel primo tempo della partita con la Roma, a Roma, questo è proprio un, come dire, un difetto atavico che si trascina dietro questa squadra e che soprattutto pensa di poter fare il contropiede, ma per fare il contropiede ci vuole, ci vogliono altre qualità, la forza per conquistare palloni. Vi segnalo un'altra cosa, cioè questa è una squadra che fa del pressing, come così ha conquistato il gol del vantaggio, il rigore a Torino ieri, ma lo fa in maniera molto scomposta e pacchiana, così da meritare, per esempio, siamo con quella di De Sciglio al sesto, alla sesta espulsione, sì, in meno di una di girone di ritorno, e questo è un dato francamente molto più allarmante. Sì, sì, anche l'involuzione di De Sciglio che sta facendo nella crisi irreversibile. No, De Sciglio io sono convinto che sia un patrimonio da difendere fino all'ultimo istante. Sarà forever young, non credo. No, io non ci credo. No, no, io comincio a convincermi invece che abbiamo sbagliato giudizio e previsione e pronostico, perché le giustificazioni si sono perse e sono tantissime, però questo è un ragazzo che insomma è completamente diverso da quello che abbiamo visto il primo anno, quando era disinvolto, sfacciato, capace di prendere iniziativa, di dimostrare personalità, insomma perdere tutte queste qualità nel giro di pochi mesi o addirittura di una stagione intera, onestamente, sì, però, sono Ciccio, soltanto... sappiamo la storia, discorso giovani... che allarghiamo a El-Sharawi, perché la bocciatura di ieri El-Sharawi sarebbe un altro capitolo, però i giovani spesso sono così, cioè arrivare in alto è piuttosto semplice, poi hanno quasi sempre una crisi di involuzione. Io tenderei ad aspettare De Sciglio all'uscita di questo tunnel. Sì, l'unica cosa è che è un tunnel un po' troppo lungo per intravedere l'uscita, come diceva quello lì, vedo una lucina in fondo al tunnel, ma è un treno che sta arrivando. Sì, senza andare troppo lontani, Franco, restiamo a Milano, De Sciglio comincia a ricordare molto da vicino Santon. Lo sapevo che lo dice. Ciao Franco. Sì. Ciao. Saluti. Ciao Franco. Franco Ordine, inviato del giornale. Oh, siamo quasi alla fine di questa nostra prima ora che sta volando. Ti leggo questo messaggio che è bellissimo, Maurizio da Livorno. Io tifo Milan, ho visto dal vivo 6 finali di Coppa dei Campioni, quelle vinte, quelle perse, accetto che il Milan non vinca, ma allora lo voglio giovane, cazzuto, giovane e combattente. Io e Sien Muntari e gli altri non li voglio più vedere. Sono sempre i soliti discorsi che tornano. No, però ha ragione. Giovani. Ma ha ragione, sì, fino a un visto certo ieri punto. Muntari, poi cioè, sono anche curioso di capire cosa fa Inzaghi con Muntari, perché Mancini sulla questione Osvaldo, ad esempio, sta costruendo un tassello della leadership nello spogliatoio. Anche qui si misurerà poi il peso di Inzaghi anche, allenatore. Bisogna capire anche se arriva a destro, a cosa serve destro, come verrà utilizzato Cerci, eccetera, eccetera. 800 24 00 24, dopo il GR arriva anche Pierluigi Pardo, quindi continuate a telefonare, ce ne sono tante, poi vi facciamo intervenire. Ci sarà Urbano Cairo, a proposito dell'assalto grande a Fort Inzaghi. GR. Cos'è Cerci? Tutti convocati. Ce l'hai solo tu poi quella foto, perché il telefonino è tuo, ricordiamo, anche se il selfie poi l'ha scattato Guido Nanni. Sì, ho fatto tutto io, ho dato il telefonino a lui, ho chiesto gentilmente se me lo portasse in campo e poi è successo quello che è successo. Quando pareggi 2-2 è meglio essere sotto due gol e tornare al pareggio che il contrario. Vuol dire che la rivolta c'è stata e che i ragazzi hanno fatto un secondo tempo di alto livello. senza dubbi all'intervallo, perché essere sotto due gol non è mai facile, sul fatto che dopo, un po' come al circo, si gioca senza rete. Ma io credo che rimanga comunque l'ottima prestazione della mia squadra. Abbiamo giocato contro un avversario che ha in questo momento, o da due anni, ha obiettivi diversi dai nostri, e abbiamo giocato sicuramente almeno alla pari. Poi è chiaro e inevitabile che ci siamo trovati meritatamente in doppio vantaggio, quindi la vuoi portare a casa la vittoria, la vuoi portare a casa il risultato, ma non abbiamo mai pensato in un intervallo che la partita fosse già chiusa. 800 24 00 24, abbiamo ancora un'ora per stare insieme. Pierluigi Pardo, ciao. Come va? Massimo esperto mondiale di selfie. Allora, io adesso, perché ho sentito, non l'avevo colta in diretta, ho sentito la domanda di Angelo Mangiante. Allora, adesso Pierluigi Pardo, Massimo esperto mondiale di selfie, una lezione. Ci spiega cos'è il selfie, perché magistrale. Giustamente Totti se l'è un po' presa e ha detto, ho fatto tutto io, e che il selfie, Pier? Selfie, dice per selfie, definizione. Per selfie, perché potrebbe esserci anche la R, no? Potrebbe diventare selfie. No, ma è trattasi di foto nella quale foto che colui, che il soggetto che viene fotografato fa da, io non, cioè, sono veramente in crisi. No, però per dire che il selfie non può averglielo fatto il preparatore, cioè il selfie, se l'è fatto Totti. Autofoto. Senti, però attento, quando ti fai i selfie non t'ammoniscono, e neanche a Totti. Solo che tu non giochi in Roma. Lo so, ci ho pensato. No, sì, ci abbiamo pensato credo... anche noi, che sai che siamo un po' cattivi dentro. Ci hanno pensato un po' anche i tifosi della Juve, ai quali dico che però neanche Tevez col ciuccio in bocca a San Siro era stato ammonito. La nonna di Florenzi vale il giallo. La nonna vale il giallo. Nonna più selfie, magari la scampava anche Florenzi. No, Pier? Sì, oppure appunto, da fare il selfie con la nonna sarebbe stato straordinario. No, però devo dire in generale che questo tipo di situazioni, e questo vale ovviamente per tutti, insomma vale per Tevez come per Totti, io sono per un po' di indulgenza, nel senso che comunque credo che tutto questo contribuisca e faccia parte dello spettacolo, e quindi alla fine è evidente che si perdono dei secondi, insomma, se fossi l'arbitro cercherei di chiudere un occhio, perché credo che il ciuccio di Tevez come la foto di Totti contribuiscano a rendere questo gioco ancora più bello, no? Fanno notizia, e in qualche modo lo sdrammatizzano pure, creano un argomento di conversazione nei bar di tutta Italia, quindi anche fosse soltanto per questo, secondo me non stavo da giallo. Sì, pensa anche gli emuli da domenica prossima, campetti, immaginati i campetti di periferia, i tornei di CSI dell'oratorio, tutti con l'amico che ti passa lo smartphone. Detto questo, così archiviamo il discorso. Però sia chiaro che vale per tutti, deve valere per tutti. Per Val di Fiori, per. Ma tutto lo vedi Val di Fiori farsi il selfie. Per Carmona, no. Per Cascione, deve valere per tutti. Poi questa sera. Di Simplicio che è salito in tribuna all'ultimo gol. Una delle cose più ridicole della storia. Ma cioè, fa parte comunque di una dimensione. Poi in fondo della dimensione più vera del calcio, no? Noi ci lamentiamo tanto del professionismo, poi sicuramente ci saranno anche delle cose studiate, ma insomma mi sembra che ci sia il marketing qui, cioè la voglia di giocare con il momento più bello di una partita di calcio. Sì, lui l'ha detto, io mi ero preparato tutta la settimana per fare questo selfie, era tutto organizzato, del resto non avevamo dubbi, visto che c'era il telefonino di nota marca che era lì che lo aspettava dopo questa meravigliosa rete. Dicevo, questa sera poi aspettiamo la Juventus, che può riprendere in parte il largo se vince a Napoli, cosa tutt'altro che scontata. Ci sono Andrea da Milano e Davide da Rimini, poi dopo il traffico c'è un grande ospite. Partiamo da Davide da Rimini. Davide, buonasera. Eccoci. Un attimo solo, Totti non è sponsor di una nota compagnia telefonica. Ma qui siamo veramente alla perversione. È perversione, c'ha ragione, però. Abbi pazienza. Sì, ragione. Ma in Italia uno più uno è facile che faccia due, comunque. Sì. Intanto il nostro Giorgio De Luca. Scusate, è una sciocchezza. Cioè, la nota marca telefonica della quale fa il testimonial Totti, che tipo di vantaggio dovrebbe avere? Mica ha fatto una telefonata, ha fatto una foto, non credo che voglia, insomma, che cosa è un'istigazione, ci ricorda che esistono i telefoni, non credo ci sia bisogno di Totti sotto la curva per ricordare a 58 sì, milioni di italiani che ci sono gli smartphone, che ci sono i selfie. Che sia la marchetta questa mi sembra veramente una follia. No, ma credo che Davide stesse scherzando, Pier, fammi spezzare una lancia. Io sto giocando, Davide. A favore di Davide. Oh, il nostro Giorgio De Luca invece l'ha postato il selfie di Totti, quindi andate chiocciola tutti convocati sul nostro profilo e poi se volete potete anche telefonare per dare il voto al selfie, perché non è venuto benissimo. No, rivedibile. Davide, se hai qualcos'altro da dire. No, io volevo parlare più che altro di questa voce di Balotelli alla Juve. Sì. Da juventini siamo molto contenti quando ci viene a trovare il signor Raiola, perché comunque sì, ci ha sempre portato bene. Ha portato Pogba quindi. E anche Nedved, diciamoci la verità, quindi... siamo contenti, però con Balotelli insomma siamo un po' preoccupati, perché non abbiamo preconcetti, però da qualsiasi parte l'ha portato non è che abbia fatto sfracelli, sì, però diciamo. Se ve lo regalano 5 mesi, paga al Liverpool e poi si vede, lo secondo prendi. Me può anche essere un'operazione che ha un senso anche IVA, e poi se garantisce Pardo, allora sì. Pier, garantisci? No, manco morto. Garantisce che? Che devo garantire? Devo garantire. Comunque siete forti. Grazie Davide. Non ho capito cosa deve garantire. No, comunque Pier non garantisce su Balotelli. Io no. Guarda, è Genta, l'avvocato di Allora garantisce Genta. Garantisco io. Garantisce claro. Genta, traffico. Garantisce. Garantisco. Uè, ciao ragazzi, sono Roberto Tomba. Volevo fare un commento tecnico sulla sciata di Matteo Renzi a Courmayeur. Fermatelo assolutamente. Tutti convocati. Volete sentire il commento più velenoso e divertente che ho letto sulla questione del selfie di Totti, Pier? Vai. Me l'ha scritto un amico su Twitter, ha detto finalmente alza qualcosa, un trofeo, qualcosa. non male. Andrea da Milano, eccoci. Buonasera. Prego. Diciamo velenosa questa battuta. Carina. Sì, dai. A prescindere che faccio una premessa che non c'entra col mio intervento, che poi sarò telegraficissimo. Io da laziale oggi ho Totti, come può non fare una fotografia? Insomma, ha fatto un bel gol e un altro che è un capolavoro. No. Per cui secondo me doveva incorniciare questa giornata. No, ma l'abbiamo detto, meraviglioso. Anche Totti, un gesto carino. Assolutamente. Insomma, poi, ecco, esatto. Invece Prego. Il mio intervento, quindi abdico la mia fede laziale, non parlo del derby, è sul Milan, perché ieri sera ho visto un Milan inguardabile, penso abbiamo visto tutti che era inguardabile, e volevo chiedere due cose per stimolare un po' la discussione, se volete, insomma. Uno, Inzaghi mi dà l'idea che faccia parte un po' della spending review del Milan, sostanzialmente, è quell'allenatore che secondo me, se qualcuno gli detta la formazione, tutto sommato accetta, e poi secondo me lo pagano 4 soldi sostanzialmente, magari anche con 2 pacchette sullo spazio, certo tantissimi soldi rispetto a noi comuni mortali, però forse molto molto meno di un allenatore di Serie A. Quindi non ho Però Andrea, mi pare una scelta coerente con quelle che con quella che è stata la traiettoria del Milan negli ultimi mesi, negli ultimi 2 anni. Non è detto necessariamente che Inzaghi non sia la scelta giusta. Certo, e spiegava prima benissimo Franco Ordine che l'ambiente del Milan lo conosce come le sue tasche, che qualche crepa comincia a vedersi, qualche segnale. Ad esempio a me è incuriosito anche Cerci parcheggiato lì in panchina, Cerci appena arrivato. Cucchi? No, Cerci, ho capito. Sì, l'ho salutato. Sì. Ci siamo detti, voi volete che io ripeta quel che ho detto a Cerci? Quando ho visto Cerci, che ho abbracciato e che ho salutato dopo 6 mesi che non lo vedevo, 4 mesi che non lo vedevo, e gli ho detto, ma scusami, ma tu non potevi rimanere con noi visto che eravamo arrivati all'ultimo giorno? Sei proprio un copione. Cosa ha risposto però? Con molta, però gliel'ho detto con simpatia, mi ha abbracciato, preso la ragione che devo sono fare. Sono un coglione, Cioè, davvero, presidente Cairo, buonasera. Buonasera. Cioè, davvero con simpatia gli ha risposto, sì, ha ragione, presidente, sono stato sprovveduto. No, vabbè, dai, ho fatto una battuta prima, ma gliel'ho detto veramente, ma con affetto, perché io ci tenevo a tenere il giocatore con noi, anche perché si era arrivati all'ultimo giorno e quindi poteva essere una buona soluzione. Poi tutto è fatto veramente affettuosamente, con un giocatore che è stato con me per 2 anni, ha fatto benissimo, al quale voglio bene e al quale auguro le migliori fortune. Però in quel momento gliel'ho detto, mi è venuto dal cuore. E ha fatto benissimo. E devo dire che lui non se n'è neanche offeso. Devo ma dire, ci mancherebbe. No, ci mancherebbe. Sì, meglio ieri sera vederlo comunque in panchina, perché per carità, soprattutto in questo Milan un po' così che abbiamo visto in questo inizio di 2015, Cerci poteva fare la differenza. Il Milan, sia onesto, che impressione le ha fatto il Milan? Beh, no, ma insomma, adesso io parlo, a me interessa vedere il Toro. Lo so, quando vedo le partite vedo. No, ma quando vedo le partite guardo prevalentemente i miei giocatori e la mia squadra. Oggi, ieri ho visto un Toro che dopo il rigore preso e il gol subito si è messo ad attaccare e ha creato tantissime palle gol, ha messo il Milan praticamente nella sua metà campo nel primo tempo in 11 contro 11 e nel secondo tempo in 11 contro 10 addirittura nella sua area di rigore. Per cui insomma direi che ho visto tutto Toro ieri, tant'è che ho visto anche il possesso palla 65 sì. a 35, no, cioè veramente abbiamo dominato in lungo e largo, creando tantissimo, avendo un po' di sfortuna, prendendo un palo con palle uscite di pochi millimetri. Poi insomma sono partite in cui se hai un po' di fortuna vinci 3-0 o vinci 3-1 e nel caso specifico invece abbiamo pareggiato perché purtroppo alcune palle non sono entrate. Sì, se hai un po' più di dimestichezza col gol, ieri a un certo punto, vedendo l'assedio del Toro, non capita tutti i giorni quei numeri lì, 27 tiri, 65%, ho dato un'occhiata alla classifica dei gol fatti, Toro 12, peggiore sì. attacco, diciamo che mi sono dato una spiegazione a un certo punto, Pier. Ma adesso ce l'ha svelato ieri sera in diretta il presidente, che è stato il premio per click, per il quinto gol, premio economico, non meglio quantificato, presidente, non so se vogliamo fare le cifre, però insomma veramente è abbastanza paradossale che il capocannoniere della squadra sia un difensore. No, beh, questo sicuramente sì, però insomma Glick gli ho dato un premio perché l'ha meritato e per i gol fatti, ma anche per come interpreta lui bene il suo ruolo di capitano, un capitano che trasmette grande forza e grande energia e grande coraggio a tutta la squadra, che ieri ha dimostrato di avere delle qualità notevolissime. Poi vi dirò anche, noi abbiamo comunque sia davanti un attaccante come Quagliarella, che è un attaccante ancora abbastanza giovane, ha 31 anni, che ha fatto 100 gol in carriera, per cui non è che abbiamo preso nessuno al posto di Immobile e di Cerci, abbiamo preso Quagliarella, che io penso che possa fare certamente benissimo, nel quale ho molta fiducia, e che è un giocatore che è ancora molto integro, tra l'altro cresciuto al Toro, con tutta la voglia di far bene al Toro, e come dire è un ragazzo del Philadelphia in qualche modo, no? Anche se poi non ci si allenava più forse, forse quando lui era nel 97, quindi no, non si allenava già più al Fila, ma comunque sì, è un giovane ragazzo del Toro. Sì, per cui, ieri si è fatto un mazzo così, giocando di sponda, sì. andando a prendere tutti i palloni, arretrando sulla tre quarti, giocando spalle alla porta, avrebbe avuto bisogno di un riferimento lì davanti. Dai, Pierluigi, fai dire al presidente Cairo chi attaccante. No, ma i nomi non li fa, però insomma credo che sia un work in progress, no? In quel reparto vi state concentrando, domanda che ormai le abbiamo fatto mille volte e lei mille volte ci ha risposto. Sì, ma infatti io adesso non faccio nomi, più che altro perché credo sia giusto, anche prima di avere definito diciamo qualcosa di concreto, non fare nomi di giocatori che militano in altre squadre, per un rispetto soprattutto alle altre squadre. Non mi piacerebbe che parlassero di miei giocatori altri presidenti o direttori sportivi, non lo faccio neanch'io. Credo che comunque sia, certamente qualcosa faremo. Poi io speravo di poter fare qualcosa entro la prima decade di gennaio e purtroppo non si è riusciti, perché ci sono incastri che dipendono anche da altre squadre, da altre volontà. Però certamente è quello che noi faremo nel prosieguo, in tempi il più velocemente possibile. Dico anche, per anche onore di verità, che il Toro quest'anno e io quest'anno ho fatto investimenti notevolissimi, perché dei 24 milioni incassati per la cessione di Cerci e della metà di Immobile abbiamo reinvestito qualcosa come 22 milioni, tanto per dire Quagliarella è costato 4 milioni, Maximovic 3,5, sì, Bruno Pérez. Si sta levando qualche sassolino dalla scarpa, presidente, anche ieri i tifosi del Toro le hanno detto, adesso basta parole, servono i soldi. Noi, lo sa, da mesi ci chiediamo il perché, cosa abbiano i tifosi del Toro con Urbano Cairo, che poi criticheremo per mille altre cose. Mi pare che questa sia la sua risposta. Ma sì, ma io non è che mi tolgo sassolini verso i tifosi, che rispetto grandemente, vengono allo stadio, pagano il biglietto e quindi evidentemente hanno diritto anche di manifestare dissenso. Però ecco, io credo che, e a volte magari le loro idee, le loro opinioni sono influenzate da qualche media in particolare che può avere la voglia di criticare un pochino troppo. Però poi, per onore di verità, e non dico certamente voi, ci mancherebbe altro, no, senza fare nomi, però quel che dico anche è, se noi facciamo un esame preciso, noi vediamo come intanto il Toro negli ultimi diciamo il Toro di questo ultimo anno passato è un Toro che è ritornato in Europa dopo 20 anni, è un Toro che ha vinto 6 partite su 10 in Europa, è un Toro che, se noi prendiamo il ranking europeo in questa stagione, è al 36° posto di tutte le squadre europee, quindi non poco, è un Toro che ha tutti i giocatori di proprietà, perché una volta mi imputavano di andare a fare prevalentemente operazioni in prestito, operazioni con diritto di riscatto. Oggi noi abbiamo, di tutti i nostri giocatori, 27 giocatori, ne abbiamo uno in prestito che è il Cazzuri, con diritto di riscatto, uno, e uno in coproprietà che è Benassi. Punto e basta, 25 giocatori di proprietà, ne abbiamo 10 che sono diciamo prestati, noi li prestiamo a società di serie B, da Barreca, da Ramu, ai due fratelli Gomis, insomma giocatori Stevanovic, Verti, eccetera eccetera, e poi abbiamo lo scorso anno abbiamo fatto la finale del torneo primavera, abbiamo sì, visto c'è comunque un progetto che va al di là poi di quella che è la classifica in questo momento, classifica che comunque dice che il Toro è lì. E Ventura ieri ha detto: ho rivisto finalmente il mio Toro, la nostra stagione inizia qui, sarà un mini campionato, un campionato da 20 partite e poi vedremo dove arriverà il Toro. Presidente, siccome prima parlavamo, gliela butto lì perché ha incuriosito molto i nostri amici dell'ipotesi di Balotelli in prestito 5 mesi gratis alla Juventus, tifosi della Juve contrari, c'è anche chi scrive: ma Cairo lo vorrebbe Balotelli 6 mesi gratis per rilanciarlo? Ma guardi, Balotelli è un parliamo di fantacalcio probabilmente, sì, no, o magari scopriremo di no, però a noi interessa il discorso su Balotelli. Guardi, è una cosa che io, come dire, queste cose non le faccio mai da solo, sono operazioni che, come dire, tutte le operazioni di acquisto di giocatori o di inserimento di giocatori vanno fatte di concerto con il mister e con il nostro direttore sportivo, per cui, come dire, la prima cosa che farei per valutare un'opzione del genere è di sentire Ventura e di sentire Petrachi cosa pensano di un eventuale inserimento di Balotelli piuttosto che di un altro giocatore candidabile, per cui non direi mai io da solo sì, no, è una cosa da valutare attentissimamente con il mister. Noi abbiamo ovviamente un'attenzione notevolissima al valore dello spogliatoio e alla coesione dello spogliatoio e quindi evidentemente tutto andrebbe valutato alla luce di tante cose. Mm. Per cui il giocatore non si discute, però certo deve ritornare forse nell'obiettivo principale della sua attività, che è quello di far, sì, far che bene. È di giocare a calcio. Poi inserire un bad boy, Pier, potrebbe non essere un problema. In quella lista che Cairo non sottoscriverà mai, c'è anche un altro che ha un caratterino un po' così, tale Osvaldo. Pier, prego, ti ho interrotto sì, prima. No, volevo capire se insomma lei non ha mai nascosto di essersi ispirato anche dal punto di vista imprenditoriale a Berlusconi nei primi anni. Insomma, le ha mandato un messaggio, vi siete sentiti, perché ieri veramente il concetto del padroni del campo e del fuoco con la U, che è un po' il marchio di fabbrica dei 25 anni di Berlusconi, sembrava veramente ribaltato, insomma, sembrava il Torino, la squadra che dominava, il Milan è apparso provinciale come quasi mai. Vi siete sentiti e che effetto le ha fatto? No, beh, non ho sentito, l'avevo sentito prima di Natale per gli auguri, ma non l'ho sentito ieri certamente, neanche oggi. Ma niente, diciamo che poi è una partita non fa mai testo, evidentemente era una partita in cui il Milan ha pensato di poter fare di farla sua subito con quel calcio di rigore e con quel gol fatto da Menez, e poi invece il Toro è uscito alla grandissima con un primo tempo spontuoso e con un secondo tempo altrettanto forte, si è visto veramente un gioco e una creazione di palle gol notevolissime, quindi direi che questa è una buona base di partenza. Si poteva fare evidentemente il risultato pieno, non si è riusciti, però insomma direi bene, molto bene il gioco, molto bene la determinazione, la voglia di vincere. Ho rivisto una squadra molto viva. Adesso però abbiamo purtroppo il calcio va veloce e noi abbiamo mercoledì una partita importante per noi, che sono gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, che è una squadra che avete visto oggi è in gran salute, sì, quindi dobbiamo grande squadra. Ottima squadra, dobbiamo essere super super concentrati e ripetere la prestazione di ieri. Presidente, mi perdoni, poi la salutiamo, ma abbiamo degli amici che ci ascoltano dalle redazioni delle più importanti testate, anche quelle vicine, il nostro amico Pierluigi Pardo, che ci insultano se non le diciamo. Compra Osvaldo? No, ho detto prima, non faccio nomi. Abbiamo assolto al nostro dovere, No, va bene. Non fa nomi, però insomma uno là davanti arriverà. Il nome, insomma, il nome più lo facciamo noi. Grazie presidente. Grazie a voi, buona domenica. Grazie Urbano Cairo, 800 24 00 24. Torniamo subito. Ciao a tutti gli amici di Radio 24, sono Sergio Cosmi. Da sportivo ovviamente sono orgoglioso che l'Inter abbia fatto veramente un acquisto meraviglioso e tutti i giocatori sono andati in campo a ritmo di Waka Waka. Tutti convocati. Yeah, tu hai capito se prende Osvaldo o no, Urbano Cairo? No, io non l'ho capito, penso che prende sicuramente un attaccante, prenderà sicuramente un attaccante, ma il mercato è fluido, è se possibile ancora più liquido del calcio, nel senso che Osvaldo fino a una settimana fa non sembrava sul mercato, non sembrava sul mercato, poi dopo quell'episodio è apparso con chiarezza un certo tipo di frattura e probabilmente la scelta sarà fatta, è una scelta definitiva. Però il gioco degli incastri, l'effetto domino è profondo, è fortissimo, quindi insomma io credo che veramente è un nome che piace e non piace solo al Torino, ovviamente. Beh, io ce lo vedrei bene al Toro, Pier? Sì, benissimo. Ce lo vedrei bene al Toro. Benissimo. Sì, sicuramente. Ma anche destro vedrei bene al Toro, forse anche meglio. Sì, destro lo vedremo bene ovunque, è un giocatore da un gol a partita, poi un giorno ci spiegheranno perché invece lo vede meno bene Garcia alla Roma. Detto che poi dopo oggi è il giorno meno adatto per parlare perché Totti ha fatto quello che ha fatto. Lorenzo da Firenze, eccoci. Sì, buonasera. Prego. Io volevo dire una cosa a Genta, non so se è in studio. Sono ma qua, certo, sono qui. Sì, vorrei dire, siccome io e lui siamo tutti e due fan del presidente del Napoli, di Laurenti. Sì. Volevo richiedere insomma, che si facesse sentire un po' di più, perché per me, secondo me, è un personaggio numero uno. Ci manca, sì, ci manca, anche perché non si può vivere di solo Ferrero. No, ma lo so, ma pochino ultimamente la vostra radio. Lo chiameremo. No, è un nostro, è sempre il nostro credito ospite, ma si è sentito pochino in generale, in valore assoluto, si è chiuso dentro questo silenzio tutto napoletano, è anche incomprensibile, ci manca molto. Lo convochiamo apertamente e pubblicamente, presidente Aurelio De Laurenti, sempre credito, anche perché dicevo prima, guarda, non si vede mica di solo Ferrero, Quando ero bambino, a Via della Vasca Navale, negli studi Ponti De Laurentiis. Ecco, visto Lorenzo, tu lo chiedi e noi lo convochiamo e il presidente interviene. Quando Piero. Ero bambino, era un personaggio straordinario. 14:30. A 14:30 adesso te lo mettono, Che fai? Non devi spiegare. 14:30, si parte tra poco. Calla. È soltanto un gioco. hai qualcosa da dire sul Napoli? Sì, anche perché ripetiamo, siamo nella corta ormai vigilia, 2:10 di Juventus-Napoli, Pier. No, è una grandissima partita, chiaramente è una partita che può riaprire il campionato tout court, perché se il Napoli dovesse vincere inevitabilmente, almeno dal punto di vista diciamo matematico, si riaprirebbe la sfida anche per lo scudetto. Insomma, Napoli avrebbe meno 7 con 20 giorni dalla fine, è un ritardo recuperabile, anche se ovviamente le squadre sono due, ma soprattutto avrebbe un'implicazione psicologica molto forte. Oggi la Lazio ha dimostrato di non essere assolutamente inferiore alla Roma nonostante la distanza in classifica, e secondo me alla fine è un buon risultato per la Roma, veramente, per come si era messa e per il dato politico della partita. A me oggi è piaciuta più la Lazio come qualità complessiva. Sono abbastanza d'accordo con Pioli, la Roma ha trovato due gol, due delle rarissime occasioni che ha avuto, grazie al talento incredibile di Totti, che oggi veramente è stato leggendario. Però la Lazio è andata anche nel finale, è andata vicino a vincere la partita, c'è andata sul 2-1 col palo di Mauri, c'è andata sul 2-2 con la palla gol di Klose, e allo stesso modo il Napoli stasera, insomma, potrebbe fare risultato e riaprire completamente tutto. Di contro, insomma, è chiaro che se la Juve dovesse passare stasera sarebbe un segnale simbolicamente molto forte. Poi è chiaro che tra l'altro credo sarebbe campione d'Italia con un turno d'anticipo, andrebbe campione a più 3 campione d'inverno, sì, andrebbe a più 3 con lo scontro diretto a favore, e quindi credo avremmo la campione d'inverno con tutto quello che significa statisticamente. Poi domani potreste parlarne. Fulvio dalla provincia di Cagliari, Fulvio. Ciao, buonasera, grazie. Prego. Innanzitutto complimenti, perché è piacevole sentire una trasmissione come la vostra, dove le polemiche vengono messe in un angolino e si parla di calcio nelle parti più belle, quindi tecnica e quant'altro. Io vorrei fare una piccola considerazione proprio sulla squadra qui tifo io, il Cagliari, che oggi ha vinto, ma che a prescindere dal risultato ha visto in campo praticamente una banda di ragazzini in linea col progetto che ha messo in campo il presidente, e che mi dispiace non aver visto invece l'artefice del progetto insieme a loro, che era Zeman. Nulla contro Zola, che è sempre stato un nostro idolo, un simbolo di tutta la Sardegna. Però anche oggi si è visto, diciamo, la mano e l'impronta forte di Zeman con una squadra che ha dei momenti di gioco bellissimo e i soliti 10 minuti di follia che generalmente erano all'inizio, oggi comunque andrà, Fulvio, dall'ottantesimo al novantesimo. Questa sarà la stagione di Zeman, perché Zeman lascia impronte poi difficili da cancellare in poche settimane o in pochi mesi, nel bene facendo crescere i giovani, nel male con quelle amnesie che anche oggi il Cagliari ha avuto, rischiando di buttare via una partita ampiamente vinta nel finale. Chi è? Buongiorno, buonasera. Buonasera a tutti, compresa la Mena Marcia. Sì, che è al telefono, no? No, non sono io. Non è Pardo la Mena Marcia. Se fosse Capuano la Mena Marcia. Allora, vedo che siete, come dire, ben predisposti, ma prima di cominciare, il vostro presidente vuole un doveroso hip hip. Urrà. Sì, urrà, però c'è poco presidente a fare i pip urrà. Che vuole fare i pip urrà? Ecco. Poco coesi. Sì, però ci dica un po' del Milan di ieri sera. Il nostro, guardi, male. Le rispondo immediatamente. Sì. Il nostro è un gruppo coeso, molto positivo. No, ma si è visto, con un'ottima organizzazione di giro. Le è piaciuto Montari, molto coeso con Inzaghi? Particolarmente coeso. Montari troppo criticato, è un bravo ragazzo. Sì. Io ho visto un ottimo Milan e non cambierei Montari né la nostra rosa con quella di nessun'altra squadra. Quindi le è piaciuto il Milan di ieri sera? Bello. È stato un buon Milan e naturalmente si è trattato di una precisa scelta tattica, il nostro atteggiamento atto a stanare i giocatori del Torino, e che denota peraltro un'ottima formula di giuoco. Sai che secondo me Pierre, il presidente, sta a rimosso. Tant'è vero, Capuano, Pardo, che abbiamo vinto. No, non avete vinto, avete pareggiato. E per questo io dico 1, 2, 3 e voi tutti insieme dite presidente, lei ha ragione. Ah, presidente, non è vero. Presidente, lei ha ragione. No, non è vero, avete pareggiato. quanto riguarda la partita di Doha, le indicazioni che mi ha lasciato, abbiamo creato di molte palle gol, abbiamo concesso un po' di tiri in porta, cosa strana per noi, però le ultime palle gol dei primi 90 minuti le abbiamo avute noi. Questa non è presunzione, la Juventus deve capire, deve migliorare sul fatto che durante la partita ci può essere un momento di difficoltà. La prima differenza è il San Paolo, i tifosi sono più che mai a fianco alla squadra, hanno visto l'importanza di essere con noi, erano aspettando i segnali della squadra, la squadra lo ha fatto, adesso credo che loro possono aiutare per fare la differenza in tutto il campionato e soprattutto in questa prima partita. Per quanto riguarda la trasferta di Napoli, credo che la Juventus è dal 2000, dal 30 settembre del 2000 che non vince a Napoli, quindi magari domani potrebbe essere la volta buona. Non è semplice, perché vincere a Napoli non è mai semplice, però abbiamo tutte le carte in regola e le qualità per farlo. Vedo che i tifosi pensano che se puoi vincere questa partita e dopo guardare avanti per lo scudetto. Io credo che loro devono sognare. Juventus che è mille cose questa sera, tra le mille cose è anche la rivincita immediata della Supercoppa di Doha del 22 dicembre, quella partita là vinta dal Napoli ai calci di rigore con svenimento di Andrea Agnelli in Mondovisione, e è anche un tabù Fatemi salutare Luciano Moggi, direttore, buonasera. Buonasera. 30 settembre 2000, Napoli-Juventus 1-2, Stellone, Kovacevic, Del Piero. Si ricorda Moggi come è finito quel campionato? No, nel 2000, sì. Nel 2000 mi ricordo benissimo, ha vinto la Lazio, se non vado errato. Ha vinto la Roma, no? Non è il campionato di Nakata e Montella, sì, la rimonta esatto, a Torino. Esatto, 2000, ma è dunque 99-2000, no, 2000-2001, esatto. Ah, sì. 2000-2001, sì. Due campionati di seguito, sì. Uno la Lazio e uno la Roma. Questo per dire però che non è per nulla scontato che la Juve questa sera possa fare bottino a Napoli. Certo, il pareggio nel derby di Roma le consegna la possibilità di dare un segnale importante, o no? Ma io vedendo il derby di stasera sono ancora più convinto che la Roma possa vincere, che la Juventus possa vincere il campionato. Il motivo è semplice: voi, non so se avete visto la Roma del primo tempo, io voglio cancellare quella Roma e voglio prendere la Roma del secondo tempo. Infatti ha fatto un tempo per uno e un 2-2 che però va stretto alla Lazio, perché se il 2-1 il palo era dentro poteva darsi che la Lazio vincesse la partita, ma la sostanza quella è che la Roma viene retta in piedi, soprattutto davanti, da un giocatore di 38 anni, che si chiama Totti, il che praticamente è sicuramente una bella cosa, perché vedere un professionista come Totti che ancora riesce ad essere decisivo in una partita come questa riempie il cuore a chi ama il calcio, su questo non c'è dubbio. Però la carta d'identità è questa: Totti resisterà fino alla fine, se resiste Totti la Roma può andare avanti, se non resiste Totti la Juventus vince il campionato. Sì, gira di gira, siamo sempre a parlare di quello lì, di Francesco Totti, 38 anni. Pier? Se Napoli stasera facesse risultato, insomma, si riavvicinerebbe. La sensazione è che nelle grandi partite abbia dei valori veramente eccezionali, poi manca la continuità. Insomma, se dovesse vincere stasera si riaprirebbe la corsa anche per il titolo? Beh, intanto cominciamo col dire che ci sono due situazioni. Una, purtroppo si sa pure che la Juventus possa perdere la partita, questo non c'è dubbio. C'è praticamente una corsa con la Roma che riappariglia la Juventus. Però io sono convinto, penso di essere convinto, che la difesa della, intanto è una rivincita da parte della Juventus sul Napoli, e questa qui è una cosa che la dice lunga, perché il carattere della Juventus è un carattere abbastanza tignoso che non lascia perdere niente, è distentato per arrivare a fare per i risultati. Poi non l'hanno presa benissimo a Torino quella sconfitta prima di Natale. Certo, perdere è sempre una cosa scomoda, però tenete presente Sì, cioè, proviamo a recuperare la linea telefonica. No, l'abbiamo recuperato, direttore? No. No, allora proviamo a recuperarla. C'è il traffico? Traffico e poi torniamo. Tutti convocati. Abbiamo recuperato la linea telefonica con Luciano Moggi. Ha detto comunque Benitez, questa partita ci dirà che tipo di stagione dobbiamo affrontare, se possiamo pensare a qualcosa di più o ci dobbiamo rassegnare alla corsa per il terzo posto. Beh, io credo che è meglio che si rassegni. Noi ci rassegniamo invece a litigare col telefonino di Luciano Moggi, io in confronto, che è peggio di quello di Pardo. Gliel'ha dato Pardo. È la domenica della rivincita del cellulare. C'è ancora Luciano Moggi? Ormai ho un telefono straordinario. Sì, straordinario si fa per dire. Passaggio al telefono, va bene. No? Sì, ma secondo te si riapre, si può riaprire eventualmente o no, Pier? Secondo me si può riaprire per quel discorso che facevo prima, perché comunque insomma 20 partite sono un'eternità. Chiaro, stiamo ragionando su ipotesi. Chiaro, è matematica, questa è matematica. No, è matematica. Abbiamo fatto la geometria, questa è matematica. Io non vedo un Napoli in grado di recuperare la Juventus e la Roma, cioè di rimangiarsele tutte e due, perché non è una squadra che non ha continuità. Sì, prima che cadesse la linea abbiamo capito che neanche Luciano Moggi ci crede a questa ipotesi del Napoli e abbiamo provato a recuperarlo. Mi piace invece capire, c'è un altro dato, noi facciamo numeri, diciamo se questa sera la Juve non vince, Allegri può cancellare la prospettiva dei 102 punti di Conte. Alla lunga può diventare un problema il confronto, cioè prima o poi tornerà fuori questo confronto con l'ultimo Conte o è un problema superato? Ma io intanto i confronti tra gli allenatori non li faccio mai. La Juventus ha cambiato allenatore, la squadra sta prima in classifica, è una squadra che probabilmente sta il gioco nel modo migliore, quindi non vedo cosa ci debba essere di strano. Io conosco i tifosi della Juventus che sono molto affezionati ad Antonio Conte, pure io sono affezionato ad Antonio Conte, ma devo dire con tutta forza che Allegri sta facendo non bene di più. Se dovesse perdere stasera la Juventus non è che succede niente di particolare, certamente sarebbe una battuta che potrebbe influire sul morale, però i dirigenti potrebbero anche sapere come si fa a recuperare il morale di una squadra di calcio, soprattutto con l'allenatore. Io penso però che la Juventus non debba perdere stasera, perché ha un obiettivo ben preciso, quello di cancellare la sconfitta di Doha, e siccome le squadre di calcio quando hanno un obiettivo praticamente riescono con la forza e con la qualità che può mettere in campo la Juventus a portare avanti il risultato in maniera positiva, io penso che stasera la Juventus possa essere positiva e non debba quantomeno perdere a Napoli. Sì, questione di motivazione. Io volevo chiedere una cosa soltanto: fa bene la Juventus a non reagire alle polemiche che arrivano da Roma? Ma questo è un discorso un po' diverso, perché con questo sistema è nato Calciopoli. No, adesso che il signor Garcia da 3 mesi a questa parte voglia dire che la partita Juventus-Roma è stata determinata in maniera positiva per la Juventus dall'arbitro Rossi, è un assurdo, perché allora e addirittura dopo la partita di Udine, se vi ricordate, lui ha fatto un discorso, visto e considerato che c'era quantomeno un rigore grosso come una casa. Lui ha detto: il padrone del campo è l'arbitro, secondo me ha arbitrato molto bene e evidentemente non ha ritenuto di concedere il rigore a favore dei fulmini. Sì. Ora si può fare un discorso. Garcia fa benissimo il suo lavoro, ma non è giusto, non è giusto, perché quando dice che l'arbitro è il padrone del campo, anche a Torino Rocchi era il padrone del campo. Certo. E questo è il punto. C'è chi chiede da casa se lei se lo prenderebbe Balotelli alla Juventus in prestito 5 mesi, poi vediamo come va. No, ma per questioni tecniche o per questioni caratteriali? No, io non lo ritengo, diciamo che Diciamo che non lo prenderebbe, lo salutiamo. grazie Luciano Moggi, tu lo riprenderesti, grazie. Pier? No. Al di là del telefonino. No. Onestamente no, mi sembra che Balotelli possa affrontare in questo momento una scommessa per squadre di livello medio. Nel caso della Juve mi sembra più una complessità che un'opportunità. Diverso è il caso, abbiamo fatto prima, parlavamo con Cairo, il caso di squadre appunto di metà classifica che hanno magari, che possono avere un vantaggio anche mediatico, no? Anche di anche economico, qualora dovessero riuscire a rigenerarlo. Certo. Dici, ti riferisci a Toro, Samp, di cui si era pure parlato? Sì, la Samp onestamente mi sembra un orologio abbastanza perfetto fin qui, anche se poi dopo la partenza di Gabbiadini qualcosa evidentemente deve fare con l'arrivo di Muriel, per carità. Insomma, la Samp non la starei a stravolgere più di tanto. Altre situazioni, per esempio quella del Torino, o anche di squadre che stanno cercando attaccanti, lo stesso Genoa, la Fiorentina, cioè ci possono essere delle ipotesi, secondo me, le quali può dare un valore aggiunto. Sì, detto che la Juve qualcosa dovrà fare, la gestione dell'affare Snyder non è stata sin qui impeccabile. Balotelli, no, ma certo, però voglio dire, Snyder in realtà, lo sappiamo, è una ciliegina, è un'opportunità che ci poteva essere, che ci può forse ancora essere, ma insomma, nel momento nel quale il Galatasaray si è messo a fare tutta una serie di opposizione, a tentare il suo gioco, poi c'è stata la dichiarazione di Snyder, insomma la cosa è diventata più complicata, ci sta anche dietro da parte della Juve. Marco da Vicenza, sì. Marco. Marco, oggi siamo sfortunati con i telefonini, strano. In questa seconda parte, Pier. Tanto per così, per attirarmi qualche, per non fare zero, sì. che il Milan di ieri sera mi ha sconvolto. Cioè, secondo me, sconvolto? Sì, sì. Cioè, secondo me è meglio una sconfitta, non so come dirti. Cioè, ci sono sconfitte più onorevoli di quello che ho visto ieri. Ieri il Milan ha finito col 5-4-0. Al di là del modulo a 5 che sappiamo, insomma, Berlusconi. Ma poi quello, Pier, al di là di una partita orrenda del Milan, la sostituzione finale secondo me è stata una cosa che non sta né in cielo né in terra, nemmeno in un'altra epoca, sì, comunque di calcio. Abbiamo capito che si è aperto il periodo di osservazione di Filippo Inzaghi, che probabilmente, raccontava Franco Ordine, non ha più credito illimitato. Vi do due numeri: con i suoi 26 punti Inzaghi è il secondo peggior allenatore nelle prime 18 partite degli ultimi 6 anni, cioè peggio di lui ha fatto soltanto Allegri dell'anno scorso, che alla 19esima poi era stato mandato via con 22 punti. Però, per dire, Seedorf dopo 18 partite con una squadra certamente non superiore a questa, Pier, 32 punti, tu sai che io i numeri non sono tutto, però qualcosina dicono. Abbiamo recuperato Marco da Vicenza, proviamo Marco. Sì, buonasera. Eccoci. Voglio dire una cosa, io sono juventino, ho tanto complimenti per la trasmissione, no? Sono juventino, se vado per il rino da Juve cambio squadra. Addirittura. Per carità, ma fa piacere. Ma parliamo di calcio o parliamo di cazzate di un Balotelli? Addirittura, ma secondo me potrebbe anche essere una possibilità tecnica, perché no? L'anno scorso, guardi, quando... Sì, c'era i mondiali di calcio, ho chiamato, ho detto Prandelli e Balotelli, due bless, e sono stati due bless. Sì, Marco, però nei primi sei mesi. Nei primi sei mesi, Marco, è storia, a parte l'avventura di Liverpool, Balotelli, qualche significato per le squadre in cui è arrivato, ha avuto, l'ha avuto anche per il Milan quando è arrivato, e quindi. E quindi potrebbe anche essere una scommessa. Noi siamo in fondo, okay. Perché, carissimo Piero, oggi dobbiamo salutare Giorgio De Luca che ci lascia. Sai che è stato promosso dal lunedì al venerdì con Carlo Genta, tutti convocati. Anche Giorgio De Luca mi ha voluto un infarto. No, Giorgio De Luca, che io voglio ringraziare personalmente perché è stato il mio compagno di tutte le domeniche. È qui dietro il vetro, perché sai che, come tutti i napoletani, è timido. Divisa tutti i convocati. No, più che timido, è teso per la partita che sta per cominciare. È stato il mio compagno per 2 anni. Io lo ringrazio, perché tutto quello che avete sentito era, in realtà è merito suo. Noi veniamo qui e poi ci divertiamo. c'è Claudia Schiattone, quella che avevamo mandato a X Factor ma ce l'hanno restituita e che da oggi prende il suo posto. Io ringrazio anche Fabio Cantadori e Pietro Lacorte che si sono alternati in regia oggi. Ma pronostico? No, pronostico non lo facciamo perché stiamo sforando e fra un po' ci... Io attaccato il derby, vince il Napoli. Vince il Napoli, tu cosa dici? 2-1. Vince il Napoli. Io dico che pareggiano, ci fermiamo, ciao, domani dopo il giro delle 14. Beh, saluto Giorgio De Luca e gli aspico un sacco di belle cose. Peccato che tifi Napoli, forza Ciamp, ciao Giorgio, stamme bene.